Alcune norme di igiene. Tiberio imperatore diceva che l'uomo, giunto all'età di 35 anni, non dovrebbe avere più bisogno di medico. Se questo aforismo, preso in senso largo, è vero, non è men vero che il medico chiamato a tempo può troncare sul bel principio una malattia ed anche salvarvi da immatura morte. Il medico poi, se non guarisce, solleva spesso, consola sempre. La massima dell'imperatore Tiberio è vera in quanto che l'uomo arrivato a metà del corso della vita dovrebbe avere acquistata tanta esperienza sopra se stesso da conoscere ciò che gli nuoce e ciò che gli giova e con un buon regime dietetico governarsi in modo da tenere in bilico la salute, la qualcosa non è difficile se questa non è minacciata da vizi organici o da qualche viscerale lesione. Oltre a ciò, dovrebbe l'uomo, giunto a quell'età, essersi persuaso che la cura profilattica, ossia preventiva, è la migliore, che ben poco evvi a sperare dalle medicine e che il medico più abile è colui che ordina poco e cose semplici. Le persone nervose e troppo sensibili, specialmente se disoccupate ed apprensive, si figurano di avere mille mali che hanno sede solo nella loro immaginazione. Una di queste, parlando di se stessa, diceva un giorno al suo medico: «Io non capisco come possa campare un uomo con tanti malanni addosso». Eppure non solo è campata con qualche incomoduccio comune a tanti altri, ma essa ha raggiunto una tarda età. Questi infelici ipocondriaci, che altro non sono, meritano tutto il nostro compatimento, imperocché non sanno svincolarsi dalle pastoie in cui li tiene un'esagerata e continua paura, e non c'è modo a persuaderli, ritenendosi ingannati dallo zelo di coloro che cercano di confortarli. Spesso li vedrete con l'occhio turvo e col polso in mano gettar sospiri, guardarsi con ribrezzo allo specchio ed osservare la lingua, la notte di soprassalto balzar dal letto spaventati per palpitar del cuore in sussulto. Il vitto per essi è una pena, non solo per la scelta dei cibi, ma ora, temendo di aver mangiato troppo, stanno in apprensione di qualche accidente. Ora, volendo correggersi con astinenza eccessiva, hanno insonnia la notte e sogni molesti, col pensiero sempre a se stessi, per timore di prendere un raffreddore o un mal di petto. Escono ravvolti in modo che sembrano fegatelli nella rete. E ogni un po' di impressione fredda che sentono, soprammettono involucri sopra involucri da digradarne, sto per dir, le cipolle. Per questi tali non c'è medicina che valga, e un medico coscienzioso dirà loro: «Divagatevi, distraetevi, passeggiate spesso all'aria aperta per quanto le vostre forze il comportano, viaggiate se avete quattrini, in buona compagnia e guarirete». Si intende bene che io in questo scritto parlo alle classi agiate, che i diseredati della fortuna sono costretti, loro malgrado, a fare di necessità virtù e consolarsi riflettendo che la vita attiva e frugale contribuisce alla robustezza del corpo e alla conservazione della salute. Da questi preliminari, passando alla generalità di una buona igiene, permettetemi vi rammenti alcuni precetti che godono da lungo tempo la sanzione scientifica, ma che non sono ripetuti mai abbastanza, e per primo, parlandovi del vestiario, mi rivolgo alle signore mamme e dico ad esse: cominciate a vestir leggeri fin dall'infanzia i vostri bambini, che poi, fate adulti, con questo metodo risentiranno meno le brusche variazioni dell'atmosfera e andranno meno soggetti alle infreddature, alle bronchiti. Se poi durante l'inverno non eleverete nei vostri appartamenti il calore delle stufe oltre i 12 o 14 gradi, vi salverete probabilmente dalle polmoniti che sono così frequenti oggigiorno. Alle prime frescure non vi aggravate a un tratto di troppi panni, basta un indumento esterno e precario per poterlo deporre e riprendere a piacere nel frequente alternarsi della stagione fino a che non saremo entrati nel freddo costante. Quando poi vi avvicinate alla primavera, rammentatevi allora del seguente proverbio che io trovo di una verità indiscutibile. Di aprile non ti alleggerire, di maggio va adagio, di giugno getta via lo cuticugno, ma non lo impegnare, che potrebbe abbisognare. Cercate di abitar case sane con molta luce e ventilate, dove entra il sole fuggono le malattie. Compassionate quelle signore che ricevono quasi all'oscuro, che quando andate a visitarle inciampate nei mobili e non sapete dove posare il cappello. Per questo loro costume di vivere quasi sempre nella penombra, di non far moto a piedi all'aria libera ed aperta, e perché tende naturalmente il loro sesso a ber poco vino e a cibarsi scarsamente di carne, preferendo i vegetali e dolciumi, non trovate fra loro le guance rosee, indizio di prospera salute, le belle carnagioni tutto sangue e latte, non cicce sode ma flosce e visi come le vecce fatte nascere al buio per adornare i sepolcri il giovedì santo. Qual meraviglia allora di veder fra le donne tante isteriche, nevrotiche ed anemiche? Avvezzatevi a mangiar d'ogni cosa se non volete divenire incresciosi alla famiglia. Chi fa delle esclusioni parecchie offende gli altri e il capo di casa, costretti a seguirlo per non raddoppiare le pietanze. Non vi fate schiavi del vostro stomaco, questo viscere capriccioso che si sdegna per poco, pare si diletti di tormentare specialmente coloro che mangiano più del bisogno, vizio comune di chi non è costretto dalla necessità al vitto frugale. A dargli retta, ora con le sue nausee, ora col rimandarvi alla gola il sapore dei cibi ricevuti, ed ora con moleste acidità, vi ridurrebbe al regime dei convalescenti. In questi casi, se non avete nulla a rimproverarvi per il stravizio, muovetegli guerra, combattetelo corpo a corpo per vedere di vincerlo. Ma se poi assolutamente la natura si ribella a un dato alimento, allora solo concedetegli la vittoria e smettete. Chi non esercita attività muscolare deve vivere più parco degli altri, e a questo proposito Agnolo Pandolfini, nel Trattato del Governo della Famiglia, dice: «Trovo che molto giova la dieta, la sobrietà, non mangiare, non bere, se non vi sentite fame o sete, e provo in me questo, per cosa cruda e dura che sia a digestire, vecchio come io sono, dall'un sole all'altro mi trovo averla digestita. Figliuoli miei, prendete questa regola breve, generale e molto perfetta. Ponete cura in conoscere qualcosa ven nociva e da quella vi guardate. E quale vi giova e fa pro, quella seguite e continuate. Allo svegliarvi la mattina consultate ciò che più si confà al vostro stomaco. Se non lo sentite del tutto libero, limitatevi a una tazza di caffè nero e se la fate precedere da mezzo bicchier d'acqua frammista a caffè, servirà meglio a sbarazzarvi dai residui di un'imperfetta digestione. Se poi vi trovate in perfetto stato e, avvertendo di non pigliare abbaglio perché c'è anche la falsa fame, sentite subito bisogno di cibo, indizio certo di buona salute e pronostico di lunga vita, allora viene opportuno, a seconda del vostro gusto, col caffè nero un crostino imburrato o il caffè col latte oppure la cioccolata. Dopo 4 ore circa, che tante occorrono per digerire una colazione ancorché scarsa e liquida, si passa, secondo l'uso moderno, alla colazione solida delle 11 o del mezzogiorno. Questo pasto, per essere il primo della giornata, è sempre il più appetitoso e perciò non conviene levarsi del tutto la fame se volete gustare il pranzo. E, a meno che non conduciate vita attiva e di lavoro muscolare, non è bene il pasteggiar col vino, perché il rosso non è di facile digestione e il bianco, essendo alcolico, turba la mente se questa deve stare applicata. Meglio è il pasteggiar la mattina con acqua pura e bere infine un bicchierino o due di vino da bottiglia, oppure il far uso di tè semplice o col latte, che io trovo molto omogeneo e non aggrava lo stomaco e, come alimento nervoso e caldo, aiuta a digerire. Nel pranzo, che è il pasto principale della giornata e direi quasi una festa di famiglia, si può scialare, ma più durante l'inverno che nell'estate, perché nel caldo si richiedono alimenti leggeri e facili a digerirsi. Più e diversi qualità di cibi dei due regni della natura, ove predomini l'elemento carneo, contribuiscono meglio a una buona digestione, specialmente se annaffiati da vino vecchio ed asciutto, ma guardatevi dalle scorpacciate, come pure da quei cibi che sono soliti a sciogliervi il corpo, e non dilavate lo stomaco col troppo bere. A questo proposito, alcuni igienisti consigliano il passeggiar con l'acqua anche durante il pranzo, serbando il vino alla fine. Fatelo se ve ne sentite il coraggio. A me sembra un troppo pretendere. Se volete una buona regola, nel pranzo arrestatevi al primo boccone che vi fa nausea e senz'altro passate al dessert. Un'altra buona consuetudine contro le indigestioni e all'esuberanza di nutrimento è di mangiar leggero il giorno appresso a quello in cui vi siete nutriti di cibi gravi e pesanti. Il gelato non nuoce alla fine del pranzo, anzi giova, perché richiama al ventricolo il calore opportuno a ben digerire. Ma guardatevi sempre, se la sete non ve lo impone, di bere tra un pasto e l'altro per non disturbare la digestione, avendo bisogno questo lavoro di alta chimica della natura di non essere molestato. Fra la colazione e il pranzo lasciate correre un intervallo di 7 ore, che tante occorrono per una completa digestione, anzi non bastano per quelli che l'hanno lenta, cosicché avendo luogo la colazione alle 11, meglio è trasportare il pranzo alle 7, ma veramente non si dovrebbe ritornare al cibo, altro che quando lo stomaco chiama con insistenza soccorso, e questo bisogno tanto più presto si farà imperioso se lo provocate con una passeggiata all'aria libera oppure con qualche esercizio temperato e piacevole. L'esercizio, dice il precitato Agnolo Pandolfini, conserva la vita, accende il caldo e il vigore naturale, schiuma le superchie e cattive materie e umori, fortifica ogni virtù del corpo e dei nervi, è necessario ai giovani, utile ai vecchi. Colui non faccia esercizio che non vuole vivere sano e lieto. Socrate, si legge, in casa ballava e saltava per esercitarsi. La vita modesta, riposata e lieta fu sempre ottima medicina alla sanità. La temperanza e l'esercizio del corpo sono dunque i due perni su cui la salute si aggira. Ma avvertite che, quando eccede, cangiata in vizio, la virtù si vede, imperocché le perdite continue dell'organismo hanno bisogno di riparazione. Dalla pletora per troppo nutrimento, guardatevi dal cadere nell'eccesso opposto di una scarsa e insufficiente alimentazione per non lasciarvi indebolire. Durante l'adolescenza, ossia nel crescere, l'uomo ha bisogno di molto nutrimento. Per l'adulto e specialmente per il vecchio, la moderazione nel cibo è indispensabile virtù per prolungare la vita. A coloro che hanno conservato ancora la beata usanza dei nostri padri di pranzare a mezzogiorno o al tocco, rammenterò l'antichissimo adagio «Post prandium stabis et post cenam ambulabis». A tutti poi che la prima digestione si fa in bocca, quindi non si potrebbe mai abbastanza raccomandare la conservazione dei denti per triturare e macinare convenientemente i cibi che con l'aiuto della saliva si digeriscono assai meglio di quelli tritati e pestati in cucina, i quali richiedono poca masticazione, riescono pesanti allo stomaco, come se questo viscere sentisse sdegno per avergli tolto parte del suo lavoro. Anzi, molti cibi reputati indigesti possono riescire digeribili e gustati meglio mediante una forte masticazione. Se con la guida di queste norme saprete regolar bene il vostro stomaco, da debole che era, il renderete forte. Se forte di natura, tale il conserverete senza ricorrere ai medicamenti. Rifuggite dai purganti, che sono una rovina se usati di frequente, e ricorrete ad essi ben di rado e soltanto quando la necessità il richieda. Molte volte le bestie, con loro istinto naturale e forse anche con raziocinio, insegnano a noi come regolarci. Il mio carissimo amico Sibillone, quando prendeva un'indigestione, stava un giorno o due senza mangiare e l'andava a smaltire sui tetti. Sono quindi da deplorare quelle pietose mamme che per un'esagerazione del sentimento materno tengono gli occhi sempre intenti alla salute dei loro piccini e ad ogni istante che li vedono un po' mogi o non obbedienti al secesso, con quella fisima sempre in capo dei bachi, i quali più sovente non sono che nella loro immaginazione, non lasciano agir la natura che in quell'età rigogliosa ed esuberante di vita fa prodigi lasciata a se stessa, ma ricorrono subito al medicamento, al clistere. L'uso dei liquori, che a non stare in guardia diventa abuso, è riprovato da tutti gli igienisti per i guasti irreparabili che cagionano nell'organismo umano. Può fare eccezione soltanto un qualche leggero poncino di cognac, sia pure con l'odore del rum, nelle fredde serate d'inverno, perché aiuta nella notte la digestione e vi trovate la mattina con lo stomaco più libero e la bocca migliore. Male, male assai poi fanno coloro che si lasciano vincere dal vino. A poco sentono nausea al cibo e si nutrono quasi esclusivamente di quello. Indi si degradano agli occhi del mondo, diventando ridicoli, pericolosi e bestiali. C'era un mercante che quando arrivava in una città si fermava ad una cantonata per osservare la gente che passava, e quando vedeva uno col naso rosso era sollecito a chiedergli dove si vendeva il vino buono, anche passando sopra il marchio dell'intemperanza che questo vizio imprime spesso sul viso, e a certe scene che destano soltanto un senso di ilarità, come quella di un cuoco il quale, mentre i suoi padroni aspettavano a cena, teneva la padella sopra l'acquaio e furiosamente faceva vento al di sotto. È certo che quando vedete questi beoni che, con gli occhi imbambulati, mal pronunciando l'R, dicono e fanno sciocchezze spesso compromettenti, vi sentite serrare il cuore nel timore che non si passi alle risse e dalle risse al coltello, come avviene sovente, persistendo ancora in questo vizio brutale che si fa sempre più imperioso, si diventa ubriaconi incorreggibili, i quali tutti finiscono miseramente. Neppure sono da lodarsi coloro che cercano di procacciarsi l'appetito con gli eccitanti, imperocché se avvezzate il ventricolo ad aver bisogno di agenti esterni per aiutarlo a digerire, finirete per isnervare la sua vitalità e l'elaborazione dei succhi gastrici diverrà difettosa. Quanto al sonno e al riposo, sono funzioni assolutamente relative, da conformarle al bisogno dell'individuo, poiché tutti non siamo ugualmente conformati, e segue talvolta che uno si senta un malessere generale e indefinibile senza potersene rendere ragione, e questo da altro non deriva che da mancanza di riposo riparatore. Chiudo la serie di questi precetti, gettati giù così alla buona e senza pretese, coi seguenti due proverbi, tolti dalla letteratura straniera, non senza augurare al lettore felicità e lunga vita. Proverbio inglese. Coricarsi presto ed alzarsi presto fanno l'uomo sano, ricco e saggio. Proverbio francese. Alzarsi alle 6, far colazione alle 10, pranzare alle 6, coricarsi alle 10, fa viver l'uomo 10 volte 10. Lettera del poeta Lorenzo Stecchetti, Olindo Guerrini, a cui mandai in dono una copia del mio libro di cucina, terza edizione. Onorevole signor mio, ella non può immaginare che gradita sorpresa mi abbia fatto il suo volume, dove si compiacque di ricordarmi. Io sono stato e sono uno degli apostoli più ferventi ed antichi dell'opera sua, che ho trovato la migliore, la più pratica e la più bella, non dico di tutte le italiane che sono vere birbonate, ma anche delle straniere. Ricorda ella il Vialardi che fa testo in Piemonte? Grillò abbragiato, la volaglia spennata si abbrustia, non si sboglienta, ma la longia di bue piccata di trifola, cesellata e di giambone, si ruola a forma di valigia in una braciera con butirro. Umiditela soventemente con grassa e sgorgate e imbianchite due animelle e fatene una farcia da chenelle grosse e un turacciolo da bordare la longia, cotta che sia giusta di sale, verniciatela con salsa di tomatiche ridotta spessa da velare e fate per guarnitura una macedonia di mellonetti e zuccotti e servite in terrina ben caldo. Non è nel libro, ma i termini ci sono tutti. Quanto agli altri re dei cuochi, regina delle cuoche ed altre maestà culinarie, non abbiamo che traduzioni dal francese o compilazioni sgangherate. Per trovare una ricetta pratica e adatta per una famiglia, bisogna andare a tentone, indovinare, sbagliare, quindi benedetto l'Artusi. È un coro, questo un coro che le viene di Romagna, dove ho predicato con vero entusiasmo il suo volume. Da ogni parte me ne vennero elogi. Un mio caro parente mi scriveva: «Finalmente abbiamo un libro di cucina e non di cannibalismo, perché tutti gli altri dicono: prendete il vostro fegato, tagliatelo a fette, eccetera». E mi ringraziava. Avevo anch'io l'idea di fare un libro di cucina da mettere nei manuali dell'Oepli, ma avrei voluto fare un libro, come si dice, di volgarizzazione, ma un poco il tempo mi mancò, un poco ragioni di bilancio mi rendevano difficile la parte sperimentale, e finalmente venne il suo libro che mi scoraggiò affatto. L'idea mi passò, ma mi è rimasta una discreta collezione di libri di cucina che fa bella mostra di sé in uno scaffale della sala da pranzo. La prima edizione del suo libro, rilegata, interfogliata ed arricchita di parecchie ricette, vi ha il posto d'onore. La seconda serve alla consultazione quotidiana e la terza ruberà ora il suo posto d'onore alla prima, perché è superba dell'autografo dell'autore. Così come ella vede, da un pezzo conosco, stimo e consiglio l'opera sua ed ella intenda perciò che con vivissimo piacere abbia accolto l'esemplare cortesemente inviatomi. Prima il mio stomaco solo provava una doverosa riconoscenza verso di lei. Ora allo stomaco si aggiunge l'animo. È perciò, egregio signore, che rendendo le vivissime grazie del dono e della cortesia, mi onoro di rassegnarmi con la dovuta gratitudine e stima suo devotissimo Olindo Guerrini. Bologna, 19 dicembre 96. La contessa Maria Fantoni, ora vedova dell'illustre professor Paolo Mantegazza, mi fece la inaspettata sorpresa di onorarmi della infrascritta lettera, la quale serbo in conto di gradito premio alle mie povere fatiche. San Terenzo, Golfo della Spezia, 14 novembre 97. Gentilissimo signor Artusi, mi scusi la sfacciataggine, ma sento proprio il bisogno di dirle quanto il suo libro mi sia utile e caro. Sì, caro, perché nemmeno uno dei piatti che ho fatto mi è riuscito poco bene, e anzi taluni così perfetti da riceverne elogi, e siccome il merito è suo, voglio dirglielo per ringraziarlo sinceramente. Ho fatto una sua gelatina di cotogne che anderà in America. L'ho mandata a mio figliastro a Buenos Aires e sono sicura che sarà apprezzata al suo giusto valore. E poi lei scrive e descrive così chiaramente che il mettere in esecuzione le sue ricette è un vero piacere e io ne provo soddisfazione. Tutto questo volevo dirle e per questo mi sono permessa indirizzarle questa lettera. Mio marito vuole esserle rammentato con affetto ed io le stringo la mano riconoscentissima. Maria Mantegazza. Le commedie della cucina, ossia la disperazione dei poveri cuochi quando i loro padroni invitano gli amici a pranzo, scena tolta dal vero, soltanto i nomi cambiati. Dice il padrone al suo cuoco: «Bada, Francesco, che la signora Carli non mangia pesce né fresco né salato e non tollera neanche l'odore dei suoi derivati. Lo sai già che il marchese Gandhi sente disgusto all'odore della vaniglia. Guardati bene dalla noce moscata e dalle spezie, perché l'avvocato Cesari questi aromi li detesta. Nei dolci che farai, avverti di escludere le mandorle amare, che non li mangerebbe donna Matilde d'Alcantara. Già sai che il mio buon amico Moscardi non fa mai uso nella sua cucina di prosciutto lardo, carne secca e lardone, perché questi condimenti gli promuovono le flatulenze, dunque non ne usare in questo pranzo, onde non si dovesse ammalare». Francesco, che sta ad ascoltare il padrone a bocca aperta, finalmente esclama: «Ne ha più delle esclusioni da fare, signor padrone? A dirti il vero, io che conosco il gusto dei miei invitati, ne avrei qualche altra su cui metterti in guardia. So che qualcuno di loro fa eccezione alla carne di castrato e dice che sa di sego, altri che l'agnello non è di facile digestione. Diversi poi mi asseriscono, accademicamente parlando, che quando mangiano cavolo o patate sono presi da timpanite, cioè portano il corpo gonfio tutta la notte e fanno sognacci, ma per questi tiriamo via. Passiamoci sopra». «Allora ho capito», soggiunge il cuoco e partendo borbotta tra sé: «Per contentare tutti questi signori e scongiurare la timpanite, mi recherò alla residenza di Marco, il ciuco di casa, a chiedergli per grazia il suo savio parere e un vassoio dei suoi prodotti senza il relativo condimento.